nel giardino, e là il signore Germont salio, una dama da un cocchio per voi di qua non lunge mi diede questo scritto. Divia etta, sonio commosso, a raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o cielo, coraggio, Alfredo, al giungervi di questo foglio.